Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati. Questa settimana è stata segnata, tra le tante notizie, anche da quella abbastanza clamorosa, che in occasione della visita del premier iraniano i musei di Roma hanno dovuto ritoccare le statue nude, cioè le hanno dovute rivestire per non urtare la sensibilità di questo personaggio. A noi italiani questa cosa fa molto sorridere, e tra l'altro però i nostri principali monumenti sono pieni di questi ritocchi. In particolare voglio alludere a uno degli affreschi più famosi che noi conserviamo in Italia, cioè il Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Questa grandiosa ultima opera di Michelangelo rappresenta naturalmente il Cristo giudice che si alza con il braccio e divide i giusti dai dannati in un tripudio di corpi nudi. Michelangelo dava l'importanza che davano i classici al nudo, la nudità era qualcosa di sublime, era una bellezza sublime. Quando Michelangelo invecchiò e quando poi morì non scampò, nel senso che contro di lui si era creata una serie di opinionisti che credevano che questo lavoro fosse sconcio. Nel cuore della cattolicità, nella cappella papale per eccellenza, non potevano esserci tutte queste nudità. E infatti, appena morto Michelangelo, si incaricò un pittore che si chiamava Daniele da Volterra, ma che purtroppo per lui è passato alla storia con il soprannome del Braghettone, che realizzò una serie di teli, naturalmente, attorno alle pudende di tutte le persone che mostravano i sessi e i seni che Michelangelo aveva creato. Quindi, come vedete, è una pratica che è stata già sperimentata a Roma. Purtroppo in questo caso è una pratica irreversibile, perché Daniele da Volterra martellò via l'intonaco nei punti stabiliti, e quindi quando c'è stato il grande restauro negli anni 70 si discusse se riportare Michelangelo allo stato primordiale, cioè alle figure nude, ma sotto quelle braghe non si trovò nulla. In Roma ci sono altri casi, per esempio le tombe dei pontefici, che avevano magari figure allegoriche femminili che erano naturalmente nude, furono in parte ricoperte e rivestite con delle belle lastre di piombo, di bronzo, eccetera, che nascondevano le nudità per la tranquillità dei cardinali e dei monsignori che vivevano in gran numero in Roma.